non si scappa, dai vicini, dalle code non si scappa, dall'occidente, dall'oriente, dalle religioni, dall'idiozia di questo tempo che non dà più tempo a nulla, non si scappa, da un acquisto, da un saldo, dalla merda, dal piscio, dal vomito, non si scappa da niente, se non con queste parole ti faccio esplodere a mezz'aria. Questa è la mia guerra pulita, il mio canto, la mia gloria, la mia disperazione. Bacio tutte le parole, ringrazio Dio che mi permette di usare. Ringrazio Dio che mi permette di usare. Non si scappa, non si scappa, non si scappa, non si scappa, non si scappa.